Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Allegro e frizzante, insomma, questa volta, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ma perché adesso vi vado a spiegare, insomma, che non ci sono più le mezze stagioni. Ogni volta vi racconto un aneddoto che lo dimostra. E questa volta in realtà non ci sono più le mezze stagioni, perché anche non ci sono più le mezze stagioni, il programma stesso a volte cambia, a volte ha degli imprevisti, e con questa emergenza che arriva purtroppo dal Giappone, che riguarda il Giappone, vorrei con voi concentrarmi in particolare su una notizia. Ogni volta, lo sapete, potete intervenire su tutte le notizie della settimana e le commentiamo insieme a un opinionista estemporaneo, eccetera, fino alle 3. Oggi vorrei, se me lo permettete, concentrarmi con voi e con gli ospiti che saluterò tra poco su, appunto, quanto sta succedendo in Giappone, ma per un aspetto in particolare. Diciamo che l'allarme più forte, a parte i tantissimi morti, feriti, dispersi eccetera, l'allarme più forte è questo relativo all'esplosione nella centrale nucleare di Fukushima in Giappone. E adesso le notizie arrivano di momento in momento, bisogna capire davvero qual è la situazione, il livello di gravità anche di questo allarme, se è fondato fino in fondo, se stanno riuscendo a contenere l'emergenza oppure no. Che cosa ci porta a pensare, a riflettere questa situazione anche su di noi e sul nucleare in Italia? Sapete, era stato abrogato per volontà dei cittadini con un referendum nel 1987, quindi si era abbandonato il nucleare in Italia come forma di approvvigionamento dell'energia. Adesso con il governo Berlusconi dovrebbero partire, almeno quanto è stato annunciato, a breve la costruzione di nuove centrali nucleari, riprendere insomma la strada del nucleare. Dovrebbe essere circa 13, c'è stata anche tanta polemica nei mesi sui siti, le regioni che dicono no, noi non li vogliamo. Insomma, vediamo che cosa succederà, ma in questo momento in particolare mi piacerebbe sapere da voi, e vi ricordo il numero verde 800 24 00 24, che cosa ne pensate, che impressioni vi suscita, che riflessioni vi suscita quello che sta succedendo in Giappone. Se siete dei nuclearisti sempre a favore del nucleare, perché, oppure se non lo siete questa cosa vi allarma ulteriormente. Poi naturalmente adesso, grazie anche alla presenza di diversi ospiti, cercheremo di capire da un punto di vista anche più approfondito, più tecnico, e sentiremo le varie posizioni e le vostre, sempre appunto il numero verde 800 24 00 24. Quindi per questa puntata salteranno naturalmente gli appuntamenti con la satira di Spinoza.it, che ritornano sabato prossimo. Non ci collegheremo con Marte, perché parleremo di robe di questo pianeta che sembrano dell'altro mondo ma sono le nostre, e quindi fino alle 15 insieme per discutere in particolare di questa notizia di attualità rispetto a quella della settimana, che mi sembra ovviamente la più grossa. Allora, signore e signori, vado a presentarvi gli ospiti di questa puntata. Jacopo Giliberto, giornalista del Sole 24 Ore, caro Jacopo. Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te. Poi abbiamo l'ingegnere Roberto Adinolfi. Buongiorno, ingegnere. Buongiorno a tutti. Che è amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, che è l'unica realtà industriale che in Italia si occupa di progettazione di centrali nucleari. E poi c'è Marco Ricotti, buongiorno. Buongiorno. Che è docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Poi abbiamo Gianni Mattioli, buongiorno Mattioli. Buongiorno. Che è professore di fisica alla Sapienza di Roma e uno dei responsabili del Comitato Scientifico di Sinistra, Ecologia e Libertà. Ed Ermete Realacci, benvenuto Realacci. Buongiorno, buongiorno. Che è responsabile della Green Economy del PD. E quindi insieme a loro cerchiamo un po' di capire la situazione e se è il caso appunto di procedere in Italia col nucleare. Tra l'altro sapete che la Consulta ha approvato una serie di referendum che si faranno a metà giugno, tra cui quello ancora in particolare spinto dall'Italia dei Valori su nucleare sì, nucleare no, nuovamente è stato considerato ammissibile, quindi si tornerà a votare su questo argomento. Vediamo se con le vostre opinioni, ascoltatrici e ascoltatori, riusciamo un po' a precedere, a darci un po' il polso della situazione su questo tema. 800 24 00 24. Intanto Jacopo Giliberto, tu ci spieghi adesso un po', dacci un po' le misure di quello che sta succedendo realmente a Fukushima, perché si sa, il Giappone è un po' lontano da noi, poi a volte, come è anche comprensibile, i governi cercano un po' di filtrare certe notizie allarmanti. Qual è la situazione secondo te, Jacopo? Beh, intanto è vero che il Giappone ha sempre un approccio molto sobrio sulle informazioni nucleari. Dico sobrio per essere, come dire, molto contenuto anch'io. Già loro sono molto morigerati di per sé, no? Non si sono neanche così spaventati come noi, proprio ci saremmo atterriti e buttati dalle finestre con una cosa del genere. Invece loro hanno un po' questo aplomb, però al di là dell'aplomb, qual è la gravità? Un'emotività diversa. Dentro al reattore, queste sono notizie che ho preso dalle reti internazionali, non quelle, non le agenzie, ma dalle reti dei sistemi interni al mondo nucleare. Dentro al nocciolo c'è un bel problema, continua a scaldarsi, a essere molto in pressione e così via, ma... Il nocciolo quello nucleare all'interno, dici? Il reattore propriamente detto, ma non ci sono problemi catastrofici, nel senso sono bei problemi da risolvere, ma resta confinato dentro la sua blindatura d'acciaio. Non ci sono problemi nemmeno per il secondo contenimento, che è il cosiddetto biologico, che è il grande cassaforte di cemento armato in cui c'è chiuso la prima pentola a pressione d'acciaio, e non ci sono problemi nemmeno per il contenimento esterno, che è la seconda di cemento armato, il terzo livello ed è la seconda blindatura di cemento armato che avvolge la parte nucleare della centrale. Dove c'è stato il problema? C'è stato il problema sulla parte esterna, diciamo il capannone industriale, la parte non nucleare. Perché? Perché questa mattina i tecnici della TEPCO, Tokyo Energy and Power Company, cioè la società elettrica di Tokyo giapponese che gestisce la centrale, proprietaria e gestrice della centrale, hanno chiesto l'autorizzazione a scaricare dall'interno del reattore il vapore, è una pentola a pressione, il vapore per alleggerire la pressione, per alleggerire la pressione. Scaricarlo dove? Scaricarlo all'interno del capannone industriale, cioè al di fuori dell'area blindata e all'interno del capannone industriale. Quindi attraverso tubi, condotti, immagino, no? Esattamente. Hanno ottenuto l'autorizzazione e hanno liberato questo vapore ad altissima pressione e altissima temperatura, una parte del vapore che era contenuto nel nocciolo, all'interno del capannone che avvolge tutto quanto, tutte le blindature. Ed è quello che si è rotto. Questa pressione di vapore che è entrata di colpo si è rotta, si è spaccata. Senti, quindi quello che potrebbe fuoriuscire è questo vapore che ha un suo contenuto radioattivo, pericoloso o no? No, è uscito, effettivamente. Però è un vapore pericoloso, perché evidentemente, oppure naturalmente, no? Naturalmente è pericoloso, è radioattivo, però è in qualche misura... il nocciolo, il reattore è integro e le blindature sono tutte integre, cioè l'effetto Chernobyl non lo vedremo, per fortuna. Quindi tu lo garantisci, Jacopo Giliberto l'ha detto, è garantita questa cosa? fare un giuro in giuretta, però insomma. Comunque, Jacopo, resta lì che ti prendi le tue responsabilità. Sentiamo Marco Ricotti, che abbiamo detto docente di impianti nucleari, quindi di chi si intende di costruzione di questi impianti. Quindi, Ricotti, quanto ha detto Jacopo Giliberto ci può rassicurare, rassicura prima di tutto i giapponesi, ma si sa che il mondo è globalizzato anche da questo punto di vista. Abbiamo visto l'esperienza di Chernobyl, cioè possiamo stare tranquilli, effettivamente la situazione è così sotto controllo, il nocciolo della questione e della centrale lì chiuso, protetto, blindato? Ma questo sicuramente lo possono dire solo i tecnici e le autorità di sicurezza locali. Un unico commento all'intervento di Giliberto: non per fortuna, ma per progettazione, non vedremo un'altra Chernobyl, perché stiamo parlando di un reattore che è completamente diverso da quello russo, quindi. Non è solo per fortuna, non è principalmente per fortuna. Tecnologia avanzata. Perché si tratta di una centrale diversa da quella di Chernobyl. Non è nella tecnica, nella realtà delle cose. Si può dire, Ricotti, di che generazione è? Perché si parla di quarta generazione delle centrali. Stiamo parlando di un reattore un po' vecchiotto, stiamo parlando di un reattore di seconda generazione che avrebbe dovuto essere dei primi reattori di seconda generazione ha già raggiunto i 40 anni di età, avrebbe dovuto essere spento nel prossimo aprile, quindi... Accidenti, proprio un mese prima si è dato da fare a causa del... Sì, devo dire che da questo punto di vista potrà confermarlo certamente un tecnico specializzato come il dottor Adinolfi. I reattori terza generazione presentano caratteristiche di sicurezza ancora superiori a quelle pur elevate dei reattori di seconda generazione. Ripeto, stiamo parlando di un evento... che ha dell'apocalittico, cioè che ha spostato di 10 centimetri l'asse terrestre. Ha distrutto dighe, ha fatto sparire treni. Sì, una vera catastrofe, infatti, ecco, in Giappone. Ha generato, io spero che rimangano solo 1400 morti, ma purtroppo un danno incredibile. E giustamente ora stiamo parlando di un allarme, di un'attenzione agli impianti nucleari, ecco, però per ora direi che è contenuta. Situazione è assolutamente incomparabile tra la situazione degli impianti nucleari e le altre notizie che arrivano. Sentiamo, cominciamo a sentire, poi man mano gli altri ospiti, anche un po' le voci delle ascoltatrici e gli ascoltatori di fronte a una tragedia e una situazione anche del genere. Mauro dalla provincia di Ravenna, al numero verde 800 24 0024. Mauro, prego. Buongiorno. Buongiorno Mauro. Niente, io sono padre di tre figli e ho vissuto Chernobyl che avevo 14 anni. Ma a me mi sembra una cosa assurda voler ancora puntare al nucleare, soprattutto in un paese come l'Italia. Per fortuna, nell'eventualità di un sisma di tali proporzioni, noi italiani per un buon 80% saremmo morti immediatamente sotto le macerie delle nostre case. Però mi viene sempre da dire... anche se queste centrali fossero costruite con il massimo della sicurezza, rimane comunque sempre il problema dello stoccaggio dei rifiuti che non siamo assolutamente in grado di gestire, nessuno attualmente nel mondo è in grado di gestire lo stoccaggio delle scorie radioattive. Quindi mi sembra un'utopia voler continuare su questa strada. Mauro, ti ringrazio e poi sentiremo anche gli altri ascoltatori e le altre ascoltatrici. Vorrei sentire a questo proposito Gianni Mattioli, che tra l'altro tra poco ha un treno e quindi lo sentiamo subito adesso, abbiamo detto professore di fisica della Sapienza di Roma. Quello che dice questo ascoltatore, Mauro, che la sicurezza poi al 100%, come gli esseri umani non possono averlo su nulla tranne che sulla morte, diciamo, si può avere sul... E cosa ne pensa lei a questo punto del ritorno del nucleare in Italia? Mi sembra che dica in termini semplici quello che noi ben sappiamo, e cioè perché mai dal 1991 in Francia si è cominciato a costruire un solo reattore, perché mai negli Stati Uniti dal 1985 non si è aperto più un cantiere, perché ci si è resi conto che i problemi fondamentali di questa tecnologia, che ci sono ben noti, ancora non siamo stati capaci di risolverli. Poi nessuno, per carità, speriamo che la situazione in Giappone si risolva, ma i dati sono piuttosto quelli. Evacuazione fino a qualche ora fa si diceva della gente entro 2 chilometri, adesso ultima notizia entro 20 chilometri, e allora uno pensa a questo nostro paese sismico in cui, stando ai criteri in discussione in sede Euratom, cioè localizzabilità di impianti nucleari solo in siti che abbiano un ritorno non inferiore a 10.000 anni per eventi con scala Richter del quinto grado, e in Italia di siti con queste caratteristiche ce ne sono tre soli: il Salento, la Sardegna e un'area in confine tra Lombardia e Piemonte. Quindi Puglia, Sardegna e quest'area di confine. Ma perché mai noi dobbiamo far vivere questo paese nell'angoscia della sicurezza, dell'impatto sanitario in condizioni di routine, perché ora ci annuncia l'ufficio federale tedesco che nell'intorno di tutti gli impianti nucleari tedeschi si ha più del raddoppio delle leucemie infantili. Ma perché quando la quantità ben più rilevanti, l'intero programma nucleare italiano inciderebbe non più che per il 5% dei nostri consumi. Ecco, questo è interessante, Mattioli. Poi ritorniamo su questo 5% per cui ci è necessaria l'energia nucleare. Ci dobbiamo fermare qualche istante perché molti che ci ascoltano stanno viaggiando. Poi ritorniamo con gli ospiti su questa notizia in particolare di attualità, qua non ci sono più le mezze stagioni. Numero verde per voi ascoltatrici e ascoltatori, se volete esprimere la vostra opinione, diciamo così sinteticamente, su nucleare sì, nucleare no, la luce di quello che succede in Giappone. Il numero è sempre 800 24 00 24. Non ci sono più le mezze stagioni. Sempre Roberta Giordano con voi per una puntata, diciamo, un po' più monografica. Di solito siamo sulle notizie d'attualità insieme, ma questa in particolare è la notizia di oggi, di questa settimana, di questi giorni: il Giappone, il terremoto, la catastrofe che ne è seguita e l'allarme nucleare che ci fa riflettere oggi su nucleare sì, nucleare no, per quanto riguarda anche l'Italia. Sapete che dopo il referendum abrogativo dell'87 adesso si torna di nuovo a parlare di centrali nucleari, anche se ci sarà un prossimo referendum a giugno. Quindi abbiamo sentito alcune voci degli ospiti e degli ascoltatori. Il numero verde 800 24 00 24. Ingegnere Adinolfi, abbiamo detto amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, quindi rispetto alla sicurezza, quello che sta succedendo in Giappone, abbiamo parlato delle tecnologie di varie generazioni, seconda generazione, questa di Fukushima che sarebbe dove c'è stata l'esplosione in Giappone. In Italia che tipo di centrali se nasceranno verranno costruite? Il governo si è espresso per la realizzazione di centrali di terza generazione, che sono le centrali progettate nel corso degli ultimi 15 anni, se vogliamo, a valle degli incidenti di TMI e di Chernobyl, e che come obiettivo si sono proprio proposte il miglioramento ulteriore della sicurezza degli impianti rispetto alle centrali di seconda generazione e nello stesso tempo un contenimento dei costi dell'impianto stesso. Quindi le centrali di terza generazione, così come oggi arrivano sul mercato, hanno a livello di progetto dei margini di sicurezza ulteriori, in particolar modo in termini di riduzione delle probabilità di accadimento di incidenti estremi come ad esempio la fusione del nocciolo. Stiamo parlando di un miglioramento che viene quantificato in un miglioramento di un fattore 100 della sicurezza rispetto a questi incidenti. Ermete Realacci, che cosa ne pensa? Il nostro comunque resta un paese sismico al di là di tutto. Sicuramente, allora innanzitutto ci auguriamo, credo tutti, che al dramma che ha colpito il Giappone non si aggiunga una catastrofe nucleare. Ci mancherebbe, di certo. Gravissime proporzioni. Voglio dire, ha colpito un paese che è molto organizzato per affrontare i terremoti. È stato detto in questi giorni, e vale anche di monito per noi, che se un terremoto anche più debole di quello che ha colpito il Giappone avesse colpito il nostro paese, noi abbiamo avuto purtroppo un prezzo in vite umane molto più alto, e questo ci ricorda come la prevenzione antisismica anche nella vita normale, nella costruzione delle abitazioni, delle scuole, degli edifici civili, è fondamentale. Io ricordo che il governo ha provato per esempio nel passato anche a indebolire le norme sulla sicurezza antisismica, è una follia, diciamo, che non, anzi al contrario, noi dobbiamo metterci nelle condizioni di affrontare cose che purtroppo colpiranno il nostro paese in futuro, spero un futuro lontano, ma accadrà, perché noi siamo una zona sismica. Ecco, anche in un paese come il Giappone si vede che questa è una vicenda, ripeto, sicuramente di dimensioni straordinarie, poi impatta con un sistema delicato come quello nucleare. Non è la prima volta. Ora io ripeto, spero che dal punto di vista della sicurezza non accadano cose più gravi, anche se vorrei ricordare che sgombrare un'area del raggio di 20 km significa 1200 km quadrati, no? Significa 10 volte la città di Parigi, per avere una dimensione dell'area che viene sgombrata, secondo quanto ci dicono le agenzie. Per una questione di sicurezza. Quindi evidentemente dei problemi ci sono stati anche in un altro impianto. Supponendo e sperando che non sia accaduto nulla di grave, no? Rimane il fatto che i problemi legati alla sicurezza in impianti nucleari rimangono non solo, come diceva l'ascoltatore, quelli legati alla gestione delle scorie. Questi problemi significano anche, lo dico con, ora so, il professor Ricotti è una persona seria, l'Ansaldo Nucleare è un'azienda seria, questo significa anche costi che aumentano. Io voglio ricordare che in un terremoto di qualche anno fa fu colpita la più grande centrale nucleare del mondo, che è in Giappone, che è rimasta ferma molto a lungo, e questo significa che quando si dice che dobbiamo costruire centrali nucleari perché costerà di meno l'energia, si mente sapendo di mentire. Costa di meno l'energia soltanto se poi alla fine una parte dei costi sono scaricati sulla collettività, o sullo Stato o sulle bollette. Quindi è una scelta da meditare con serietà e pur essendo necessario maneggiare questa tecnologia prima di fare dei passi verso nuove centrali, cautela, e noi siamo contrari. Io intanto, prima di sentire Ranieri da Milano e poi una battuta finale di Jacopo Giliberto e anche di Mattioli, che so che devono andare, volevo darvi un'ultima ora. Purtroppo c'è stata un'altra forte scossa di terremoto in Giappone, si parla adesso di 9.000 dispersi, naturalmente purtroppo sono notizie che vengono aggiornate un po' di volta in volta. Ranieri da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo dire sostanzialmente che mi trovo d'accordo con Corea Lacci per quanto riguarda appunto il rischio che ci potrebbe essere in Italia sulle centrali nucleari, ovvero una crisi, un evento come quello giapponese. Io credo che noi non saremmo assolutamente in grado di gestirlo, per cui diciamo non ci dimentichiamo che anche noi siamo un paese a forte rischio sismico, sono poche le aree dove non c'è questo rischio, e un evento del genere potrebbe essere molto molto più catastrofico. Insomma, non siamo capaci di fare costruzioni antisismiche, la normativa antisismica è ormai da tanti anni che è presente nel nostro paese. Un po' elusa, diciamo, per ora. Un po' elusa, no? Abbiamo visto elusa, anche su un po' elusa. Il mio timore è quello che possano essere eluse anche, come dire, le regole di sicurezza che ci sono nella costruzione di una centrale nucleare. Ecco. Grazie, Ranieri. Il numero verde è sempre 800 24 00 24. Le vostre opinioni, le vostre impressioni alla luce di quello che sta succedendo in Giappone, relativamente, diciamo, per oggi al nucleare. Quindi, battuta di Jacopo Giliberto, che deve poi andare, ritornare in redazione, e poi di Mattioli. Jacopo, quindi che ci dici a questo punto, tu che stavi monitorando un po' la situazione, il tuo punto di vista qual è, al di là appunto di, visto che ti occupi da tanti anni di questi temi? Il caso giapponese secondo me conferma che sostanzialmente la tecnologia è sicura, il nocciolo, la parte reazione nucleare non ha avuto problemi, cioè, ha avuto problemi ovviamente, però è tutto saldo e ben stabile. Hanno avuto una dispersione di radioattività non voluta, ma a un certo punto non controllata, e qui va a impattare su un altro elemento, cioè sull'emotività. I giapponesi sono abbastanza consolidati, hanno anche subito ben due bombe atomiche, hanno un'esperienza che noi per fortuna ci siamo finora evitati, e siamo un paese sostanzialmente molto emotivo su questi temi. Emotivo? Emotivo? Molto, sì, molto emotivo. Siamo un popolo che ragiona più con la pancia che con la testa. Il PDL pratica adesso sta dicendo i Verdi non strumentalizzino il sisma, cioè non utilizzino per diciamo così rafforzare la convinzione antinuclearista anche in vista del referendum. Ma permettimi, Roberta, ma se sono tecnologicamente tranquillo ho forti dubbi sui costi. Cioè, la sicurezza, come diceva anche Aralacci prima, la sicurezza ha dei costi altissimi nel campo nucleare, costi altissimi che chiedono un'economia protetta in qualche misura, fuori dal libero mercato, cioè o incentivi o garanzie finanziarie pagate dallo Stato, dal sistema pubblico, oppure energia di Stato. Ecco, i miei dubbi sono dal punto di vista economico. Come Aralacci non credo che l'introduzione dell'energia nucleare ci porti uno sconto, sono convinto che ci porterà un aumento delle bollette. Accidenti, grazie Jacopo Giliberto, intanto buon lavoro al Sole 24 Ore. Gianni Mattioli, visto che deve prendere il treno, che è uno dei mezzi più ecologici tra l'altro, siamo un po' in tema, una sua battuta di conclusione su una amichevole suggerimento a Giliberto. Il reattore è un complesso, non è che siccome il nocciolo tiene e allora il resto dell'impianto non significa nulla se questo resto d'impianto è capace di rovesciare fuori questo mare di vapori radioattivi che già obbligano a un'evacuazione su 20 chilometri. Ma ripeto, poi quello che conta è che noi siamo cittadini europei. L'Europa ci chiama al 2020 a coprire il 20% dei consumi di energia con le fonti pulite e rinnovabili e ha respinto un emendamento nel marzo 2008 che tendeva a reinserire il nucleare. L'intero programma nucleare di Berlusconi è il 5% e l'intero programma nucleare di fonti rinnovabili è il 5%. Vogliamo stare alle indicazioni dell'Europa, che mi sembrano molto più sagge, anche perché le fonti rinnovabili sono fonti diffuse sul territorio, non questa enorme concentrazione che, quando ha un'anomalia che noi non siamo capaci di controllare. Grazie Gianni Mattioli, buon viaggio. Grazie, arrivederci. Grazie. E è caduto l'ascoltatore che avevamo in linea. Allora ne approfittiamo, visto che siamo arrivati al limite della prossima pausa con Paolo Corleoni, è vero? Ci fermiamo qualche istante. 800 24 00 24 per le vostre opinioni, telefonate sul nucleare in Italia alla luce appunto di questo allarme che è seguito in Giappone al terremoto e allo tsunami. Poi ci ritroviamo tra pochissimo con gli ospiti. Non ci sono più le mezze stagioni. Sempre Roberta Giordano con voi in questa puntata che si concentra in particolare su una notizia d'attualità. Di solito parliamo di tutte le notizie della settimana, ma è così forte questa emergenza che si è creata in Giappone con il gravissimo sisma, poi lo tsunami e poi questo allarme nucleare che mi porta a chiedervi, insieme agli ospiti che ci sono in linea, che ne pensate rispetto al nucleare. Sapete che nel 1987 c'è stato un referendum abrogativo che ha fatto abbandonare l'Italia appunto il nucleare come fonte di energia, di approvvigionamento di energia. Col governo Berlusconi si è tornati di nuovo a parlare di nucleare, si dovrebbe partire con la costruzione di 13 centrali, forse già a partire da quest'anno, però ci sono forze politiche che hanno fatto in modo che si ritorni a votare con un referendum e ci sarà il 12 giugno prossimo. Ci sono le ascoltatrici e gli ascoltatori al numero verde, telefonate che sta raccogliendo Giorgio De Luca, all'800 24 00 24, che esprimono la loro opinione. Ci sono gli ospiti che ci stanno aiutando un po' a capire la gravità della situazione in Giappone, ma soprattutto che cosa significa avere delle centrali nucleari, costruire anche le nuove centrali nucleari oggi con nuove generazioni, ma per esempio per quanto riguarda noi e anche il Giappone su un territorio sismico. Abbiamo appena salutato Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore e Gianni Mattioli, professore di fisica alla Sapienza di Roma, che avevano naturalmente degli impegni, e restano con noi l'ingegnere Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Marco Ricotti, che è docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano, ed Ermete Realacci, che è responsabile per la Green Economy del PD. Intanto vi aggiorno, adesso si parla di 1400 morti sicuri e di questo allarme radiazioni che comunque continua a essere alto. E un altro aggiornamento, che ci sono 9500 persone disperse solo nel porto di Minamisan-riku, nella prefettura di Miyagi, nel nord-est del Giappone, che è una delle zone più colpite dallo tsunami devastante seguito al terremoto di ieri. Sentiamo ancora un ascoltatore, Valentino dalla provincia di Verona. Sì, buongiorno. Buongiorno Valentino. Sono in Pinel, sì, ok. Provincia di Venezia, scusi. Provincia di Venezia. Siamo niente, al suo collega avevo detto che ero contrario, forse, non lo so, ho mentito, non lo so. Cioè, hai ripensato nel frattempo? Sono molto diviso. No, ma parlaci del tuo conflitto interiore sul nucleare, che cosa ne pensi? Le spiego. Allora, io ho lavorato negli anni 90 con l'Università di Udine, ho portato a termine un progetto per una ricerca, perché mentre abbiamo analizzato 400.000 campioni dalla zona del Friuli, del nord, che si riferivano a una tesi di laurea, però poi un dottorato di ricerca, per quanto riguarda l'inquinamento dovuto al fallout radioattivo della centrale nucleare di Chernobyl. E in effetti là ci si era accorti che insomma il latte della vacca, un litro di latte, ci vogliono 500 litri di sangue di vacca, era radioattivo, cioè c'erano residui di cesio 137. Questo stavi dicendo, Valentino, dopo Chernobyl? Dopo c'era, esattamente era il, 90, il 96, il lavoro, 95-96, c'erano gli 86. Ora il cesio... Quindi 10 anni dopo ancora c'era questa presenza nell'attimo. Il cesio ha un tempo di dimezzamento di 30 anni, quindi cosa significa? Che dopo 30 anni il 100 di cesio, 50 ce n'è, quindi nel 2016 noi avremo il 50%. Questo mi ha abbastanza scosso, dire la verità. In effetti non è stata molto pubblicata questa ricerca, è una ricerca molto approfondita e purtroppo noi sappiamo che noi siamo la punta estrema della catena alimentare, no? Alla fine siamo accumulatori biologici, in poche parole. E questo mi ha fatto pensare sulle centrali radioattive. Per carità, Chernobyl era una centrale rudimentale, cioè non so, quello che poi... Dicevamo prima, insomma, no? Certamente non messa in sicurezza. Però allo stesso momento mi rendo anche conto che noi l'energia la vogliamo tutta, la vogliamo subito, la vogliamo continuativamente. Quindi io non so se ci siano altri sistemi che non siano l'energia nucleare. Quindi tu dici, mi preoccupa, è allarmante, però allo stesso tempo come facciamo ad approvvigionarci in modo indipendente di quello? Il mio grande dubbio. Mi allarma perché sicuramente è un altro mondo la centrale nucleare giapponese. La cosa che mi preoccupa molto però in Italia, sinceramente sono d'accordo con il dottor Realacci, è che non si costruisce assolutamente antisismico. È incredibile, una nazione come noi, siamo al terzo o quarto posto al mondo per sismicità, si fanno ancora case in cemento armato, cioè una cosa assurda, cioè una via di testa. Se arrivi in testa un solaio in cemento armato non c'è nulla da fare, se arrivi in testa un solaio di legno sei sotto una tavola come in California e ti salvi. Valentino, ti ringrazio per questa tua esperienza e per la citazione di questa ricerca che giro a Marco Ricotti. Quindi Valentino è uno di quegli italiani, diciamo, che sono possibilisti, però poi hanno toccato con mano anche i rischi del nucleare, appunto, se non messo in sicurezza, soprattutto anche se abbiamo detto il 100%, insomma, come possiamo avere la certezza. Come riusciamo ad arrivare ad approvvigionarci sufficientemente di energia in modo indipendente senza rischiare? So che è una domanda, però lei è un tecnico, Ricotti. Ma guardi, posso fare solo un commento. Mi sembra che il commento fatto dal primo ascoltatore che è intervenuto sia significativo. In un evento sismico catastrofico del genere in Italia forse sarebbero crollate l'80% delle case e non oso immaginare, ecco, quante persone avrebbero perso la vita. Una cosa sicuramente possiamo dire, anche con i reattori di seconda generazione, figuriamoci con quelli di terza, che gli unici edifici che sarebbero sicuramente rimasti in piedi sarebbero state proprio le centrali nucleari. Quindi Quindi conviene rifugiarsi lì nelle centrali nucleari in caso di... No, sto solo facendo come io, essendo un tecnico, non entro ovviamente nelle valutazioni politiche che lascio a chi fa questo, che ha questo come responsabilità. Dico solo che appunto stiamo parlando di un allarme, di un possibile allarme nucleare, e lo stiamo confrontando con dei danni certi veramente catastrofici. Voi giustamente avete fatto questa trasmissione convocando esperti nucleari e persone che vogliono intervenire su questo tema, non avete fatto la trasmissione facendo intervenire i progettisti di dighe, di porti, di strade, di ferrovie. Certamente no, anche perché approntata, ecco, così all'ultimo momento, cambiando un po' la direzione. Però voglio dire, da una parte abbiamo avuto, e io spero che vivamente che sia così, anche se appunto il numero di 9.000 erotti dispersi non lascia ben sperare, però da una parte abbiamo 1.400 persone che hanno perso la vita, quindi abbiamo un dramma reale che io sinceramente trovo specioso e riguardoso commentare troppo un potenziale problema nucleare, quando dall'altra parte abbiamo dei danni certi e visibili su altre strutture. No, questo infrastrutture. Questo quindi, senz'altro, per Ricotti, quanto riguarda però, il nucleare, come sì, diceva Jacopo Gilberto, ci tocca molto questa cosa. Noi siamo prossimi. Ci tocca perché vogliamo che ci tocchi. Al di là della tragedia giapponese che ci mancherebbe. Gilberto, noi siamo un paese che purtroppo è troppo emotivo. Io devo dire che sto iniziando a vedere un film che ho già visto nell'87. È singolare questa presenza di un incidente e di un referendum. Ecco, io credo che ripetere due volte gli stessi errori sarebbe veramente delittuoso. Ripeto e chiudo, stiamo parlando comunque di un evento incidentale che non è lontanamente paragonabile a Chernobyl. Non è vero, come ha detto qualcuno prima di me, che non siamo in grado di gestire queste emergenze, perché in via del tutto preventiva, quindi non in presenza di una fuoriuscita radioattiva di elevata intensità, ma in via del tutto preventiva, per garantire la sicurezza ulteriore dei cittadini, i giapponesi hanno deciso di far evacuare le persone entro 20 chilometri. Ecco, noi abbiamo un incidente per cui c'è anche il tempo di poter evacuare delle persone. Chi è rimasto nel treno o sotto l'acqua caduta dalla diga o morto nei porti non ha avuto neanche il tempo di essere evacuato. Vorrei chiedere a Roberto Adinolfi, abbiamo detto amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, questa questione dei costi, no, che sollevavano le persone o gli esperti, diciamo, anti-nucleare, che dicono in realtà sarebbe sì, magari a una certa sicurezza si può arrivare, ma questa sicurezza costerebbe molto e quindi non si sa se il gioco vale la candela. Ma io volevo prima di tutto fare un commento sul fatto che a questa sicurezza si deve arrivare. Io non credo che si possa parlare di impianti nucleari se non si dà sicurezza che questi impianti non possono comportare dei rischi indebiti per i cittadini. Credo che questo sia un fatto fondamentale e la regola d'oro di tutti quanti noi progettisti nucleari. L'evento del Giappone senz'altro andrà esaminato con attenzione per capire se c'è qualcosa, certo, che in quegli impianti non ha funzionato, se c'è qualcosa che nei nuovi impianti che stiamo proponendo va ulteriormente migliorato per evitare che ci siano questi rischi. Quindi la sicurezza è un dato di ingresso, perché altrimenti non parleremmo di energia nucleare per scopi pacifici. A questo punto rimane il problema dell'economia. Problema dell'economia, sentivo prima qualcuno che giustamente diceva: guardate che i costi degli impianti nucleari poi possono lievitare a fronte della sicurezza. Vero, senz'altro vero, sappiamo peraltro che i costi delle centrali convenzionali lievitano per altri effetti che si chiamano instabilità dei prezzi del petrolio o dei prezzi del gas, quindi non è che gli impianti nucleari hanno dei costi crescenti e gli altri impianti invece hanno dei costi certi. Il problema dell'economicità delle fonti energetiche è un problema complesso e che richiede di essere affrontato con molta serenità e con poca emotività. Quindi in questo mi associo senz'altro a Ricotti nell'auspicio che si eviti di precipitare il tutto su un discorso di pura pancia, mentre invece qui si sta parlando dell'opportunità o meno di ritornare a produrre energia per via nucleare, perché ci sono dei problemi oggettivi sulla sicurezza degli approvvigionamenti, sui costi degli approvvigionamenti, e il nucleare potrebbe dare un contributo in questo senso. Ecco, tra poco sentiamo di nuovo Ermete Realacci, cosa ne pensa anche della questione della pancia, dell'emotività, se è più legato a questo, anche sui costi che aveva già sollevato prima come questione. Però prima al numero verde, ancora moltissimi sono le ascoltatrici e gli ascoltatori all'800 24 00 24, quindi sentiamo Agatino di Catania. Pronto? Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Sì, da dove comincio? Brevemente, Agatino, che tra poco abbiamo la viabilità. Che opinione hai tu del nucleare? Cioè, ce l'avrai avuta anche prima di oggi, no? Un'opinione sul nucleare. Sì. È cambiata, sì. Non è cambiata? Intanto sono contrario, nettamente contrario, come penso, io sono di Catania, chiamo da Catania, come penso anche la maggior parte dei siciliani. Poi voglio dire, per essere contro il nucleare non bisogna essere necessariamente di sinistra, perché uno pensa che magari l'ambiente sta a cuore solo a chi è a sinistra, quindi questo è un altro luogo comune da... Comunque volevo dire in breve, con tutto il sole che abbiamo in Sicilia, al sud, al meridione, in generale in Italia, cioè, abbiamo sole da vendere, cioè, investiamo sul solare e sull'energia eolica, l'energia del vento, cioè, mi sembra la cosa più logica, anche perché andare a rischiare, anche se il nucleare di terza generazione, vabbè, ma sono solo belle parole, cioè, solo per chi investe, per chi ci guadagna praticamente, a loro sta bene, ma non certo a noi, che in bolletta magari ci ritroveremo con 10 euro al mese in meno di risparmio, vedi che risparmio, con 10 euro al mese se ne possono fare di cose, quindi alla fine... Che è assolutamente, sono nettamente contrario, spero che non. Ed è chiaro. Spero che non riesca, come si dice, che non vada in porto, diciamo, questo progetto, perché è uno scempio. Poi cosa lasciamo alle generazioni future, cioè ai bambini di oggi che saranno gli adulti di domani? Grazie Agatino, io sono contrario. Ti ringrazio. Poi parleremo anche appunto anche con Ermete Realacci, con gli altri ospiti, delle energie rinnovabili, appunto come alternativa possibile, se sono sufficienti, in che modo si può investire. Intanto il numero è sempre 800 24 00 24. È interessante che venga comunque in un momento come questo fuori l'opinione italiana, che credo sia quella che mantengono probabilmente da sempre. Non so se una cosa come questa può far cambiare idea, per esempio, a chi è pro nucleare. Però intanto poi continueremo a sentire tra poco le telefonate, la via verità. Non ci sono più le mezze stagioni. Siamo sempre qui ancora per circa una dozzina di minuti. Roberta Giordano con voi, 800 24 00 24, il numero per chiamare come sempre in trasmissione. E oggi in particolare su questa notizia di attualità ci stiamo soffermando con gli ospiti, con voi ascoltatrici e ascoltatori. Ermete Realacci, quindi dicevamo, abbiamo sentito le ultime opinioni pro degli ospiti. È vero, è una questione soltanto di pancia, emotiva, quella che fa dire agli italiani lasciamo perdere il nucleare. Abbiamo ricordato che il 12 giugno si voterà su questo referendum, c'è una questione di costi, di sicurezza. Ecco, nella sua opinione, Realacci, che cosa è più preponderante? La questione della sicurezza, la questione dei costi, la possibilità di investire invece in energie rinnovabili? Guardi, che la larga parte degli italiani sia contro il nucleare, lo dicono tutti i sondaggi, diciamo, anche dopo la massiccia campagna che è stata fatta a favore del nucleare, peraltro sancita come pubblicità ingannevole dal garante, no? In cui si diceva che il problema delle scorie è risolto, che la sicurezza non esiste, insomma. Io con tristezza ho visto persone che conosco dire nelle settimane passate delle sciocchezze, ho sentito una persona che stimo tantissimo come il professor Veronesi sostenere che lui dormirebbe tranquillo con delle scorie radioattive. Sì, ricordo perfettamente. Insomma, questa frase, francamente, una persona che fa onore all'Italia dovrebbe misurare le parole quando si parla di questioni di grande delicatezza. Sono d'accordo che rispetto al terremoto in Giappone, ovviamente la mia preoccupazione per l'Italia è innanzitutto come abbiamo costruito le nostre città e che bisognerebbe lanciare un grande piano di messa in sicurezza. Io più volte ho chiesto, per esempio, che si estendesse il credito d'imposta del 55% anche alla sicurezza antisismica degli edifici, perché è un problema prioritario. Detto questo, poi se quando c'è una cosa così grave o altre vicende abbiamo tra i piedi anche le centrali nucleari, non stiamo meglio. Ecco, questo diciamolo in maniera chiara, perché altrimenti sembra che ci siano soltanto degli elementi di emotività. Io ripeto, penso che anche questa tecnologia vada tenuta sotto controllo, che vada continuata la ricerca sul nucleare di quarta generazione, ma la spinta ideologica con cui si procede a realizzare le centrali nucleari, sostenendo che è la maniera per pagare di meno l'energia, non l'accetto, perché non è così. Guardi, in questo momento in Occidente sono in costruzione in tutto due centrali nucleari, una in Francia e una in Finlandia. Quella finlandese doveva essere terminata nel 2009, adesso si parla che sia terminata nel 2013, è costruita sempre con tecnologia francese, quella che verrà usata in Italia, sì, infatti, e i costi sono quasi raddoppiati. E nell'Occidente il nucleare non si è fermato per i referendum o per l'emotività, si è fermato per i costi. Le ultime statistiche del Dipartimento americano per l'energia sugli impianti che entreranno in funzione nel 2020 ci dicono che l'impianto, il kilowattore più caro è quello nucleare, lì non, come sappiamo, c'è una struttura privata di produzione di energia elettrica, quindi non ci sono sussidi, non c'è copertura da parte dello Stato. Il kilowattore più caro è quello nucleare, dopo viene il carbone, poi viene l'eolico, che è più conveniente già oggi del carbone, e infine vengono i cicli combinati a gas. Ora sappiamo che il prezzo delle materie prime può cambiare, ma le rinnovabili non possono che diminuire come prezzo in futuro. Risparmio energetico e rinnovabili sono la via principe, dopodiché padroneggiamo anche la tecnologia nucleare, ma non acceleriamo e non diciamo agli italiani fesserie, il nucleare costerà più dell'energia che oggi consumiamo. Quindi comunque, insomma, mi sembrava con un certo margine di apertura, anche con molte sottolineature naturalmente. Sentiamo adesso velocemente il numero verde 800 24 00 24, sia Ferdinando da Milano che Gennaro da Napoli. Ferdinando. Buongiorno. Buongiorno Ferdinando. Allora, numero uno, esprimere la mia solidarietà al popolo giapponese, certo, e fare i complimenti per il fair play con cui stanno affrontando la cosa. Poveracci, quello che posso. Numero due, due domande semplici semplici. Noi non abbiamo ancora un mezzo come smaltire le scorie nucleari degli ospedali. Numero due, abbiamo una bomba atomica sotto Napoli che può esplodere da un momento all'altro e non abbiamo un piano di evacuazione. 700-800 mila persone, che non ci è stato fatto niente. Come si fa a pensare di costruire una centrale nucleare? La bomba intendi il Vesuvio? Il Vesuvio. Come hanno fatto i giapponesi in 5 ore mettere in sicurezza le persone per 20 chilometri? Non siamo in grado noi di fare questo. Di conseguenza è meglio abbandonare questo progetto. Grazie Ferdinando. Poi chiediamo anche velocemente dopo sulle scorie nucleari degli ospedali, che è una cosa interessante. Gennaro da Napoli, riesce a essere sintetico, ti prego. Sì, sì, salve. Grazie. Sono di fronte al bellissimo Vesuvio. Ecco. Comunque volevo rispondere al tecnico che parlava prima e confrontava il rischio sismico con quello, comunque lo metteva in parallelo. Il rischio sismico, il palazzo crolla, assolutamente non va sottovalutato. Io muoio, è finito là. Se scoppia una bomba nucleare, una centrale nucleare, o che ne so io, non sappiamo neanche valutare che cosa è successo. Non sappiamo neanche se tra 10 anni, 20 anni nasce un bambino deforme, non sappiamo neanche se è nato per quello o per cos'altro. Grazie, grazie Gennaro. Mi diceva Giorgio De Luca, che sta prendendo le vostre telefonate, che almeno le passate, se ne stanno arrivando ancora tantissime, decine, sembrano tutti contrari, poi si vedrà insomma quando si farà questo referendum e si avrà più modo. Diciamo, adesso questa è una trasmissione che dura un'ora, è approntata così all'ultimo istante su questa notizia in particolare. Abbiamo ancora 2 minuti e chiedo agli ospiti una battuta finale a questo punto, proprio brevi, vi prego. Marco Ricotti, su questa storia per esempio delle scorie nucleari e degli ospedali, è vero che non si riescono a smaltire? Brevemente, se riesce. Ma guardi, brevissimamente, noi dobbiamo dotarci di un deposito per le scorie nucleari italiane che già abbiamo, quindi dai residui del vecchio nucleare, ma soprattutto dalle scorie, dai rifiuti che produciamo continuamente con le attività che richiedono l'utilizzo di sorgenti radioattive. Però un commento finale, voglio dire, stiamo comparando, ripeto, un possibile problema con dei danni certi. Ora credo che anche i giapponesi se ne stiano rendendo conto. Una delle strutture più sicure in casi cataclismatici come questo sono le centrali nucleari. Mi scusi Ricotti, sto vedendo un Sky TG24 in diretta, la domanda del giorno, che ha detto la stessa cosa praticamente, favorevoli o contrari. Adesso è scomparsa la percentuale, ma dava come netta superiorità ai contrari al momento, almeno per quanto riguarda l'Italia, alle centrali nucleari. Durato lo schermo pochi istanti, non ho fatto tempo a leggerlo. Roberto Adinolfi e Ermete Riallacci, una battuta proprio velocissima, perdonatemi, siamo già sulla sigla. Adinolfi. Ma io vorrei soltanto ricordare che i giapponesi hanno scelto di fare impianti nucleari ben sapendo quali sono i rischi dell'energia atomica, perché purtroppo l'hanno sperimentato sulla loro pelle. Questo per dire che non diamo così per scontato che l'Italia sia l'unico paese che si sta ponendo di fronte a una scelta folle. L'Italia si sta ponendo di fronte a una scelta che molti paesi hanno già fatto e continuano a fare. Grazie Roberto Adinolfi. Ermete Riallacci, 23 secondi. No, 12 secondi. Fermo nel mondo, soprattutto in Occidente, per ragioni di costi. Non aiuta a diminuire il costo dell'energia, non rende più indipendente il nostro paese. È una scelta sbagliata per l'Italia. Facciamo l'Italia. Innovazione, ricerca, risparmio, fonti rinnovabili. Grazie. Non regaliamo soldi alla Francia. Grazie Riallacci, ci sarà modo purtroppo di ritornare sull'argomento, anche per fortuna insomma. E adesso proprio salutando, volevo salutare Nilla Pizzi, che è morta purtroppo oggi a Milano, la prima vincitrice del Festival di Sanremo nel 51, avrebbe compiuto 92 anni il 16 aprile. La voglio salutare con questa canzone a lei dedicata, sperando che a lei a sua volta sia una colomba, da Roberta Giordano. Sereni orizzonti a tutti. Vola colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò. Sarà più sola e che mai più la lascerò.